Niente, vabbè, adesso lo mettiamo a cedere perché è entrato. Non so, non suono, forse è venuto in senso, non si sente. Accosta un pochino. Le nostre esigenze fisiologiche ma anche psicologiche, perché è il luogo in cui ci dobbiamo sentire sicuri, dove dobbiamo anche rilassarci. Quindi il ruolo dell'architetto, partiamo subito, è un ruolo fondamentale, soprattutto oggi, secondo mio parere, nel nostro mondo dove siamo andati perdendo tanti valori, dove siamo andati perdendo questo interesse per la terra, per tutto. Noi siamo qui, insomma, in questa bellissima fiera dove è tutto improntato sul biologico, però purtroppo il nostro mondo non è così, anche se insomma, la tendenza è un po' questa. Quindi diciamo, oggi più che mai, secondo me, un architetto ha un compito difficile, perché ha il compito di rispondere a queste esigenze, ovviamente purtroppo mediando con tutti quelli che sono le norme normative di ogni tipo, interburocratici, vari, insomma imposizioni di ogni tipo, e soprattutto quando parliamo di un progetto dobbiamo diversificare ciò che è nuovo, cioè ciò che noi iniziamo a costruire come qualcosa di nuovo, da magari non so, una ristrutturazione, perché logicamente i vincoli che ci troviamo davanti sono diversi. Nel caso di una ristrutturazione è tutto un po' più difficile, perché cioè, la parola è brutta, però insomma di fatto dobbiamo arrivare un po' a un compromesso, cioè arrivare il più vicino possibile a quelli che sono i nostri, avvicinarci il più possibile a quello che è il rispetto della natura, quindi introdurre materiali non inquinanti eccetera, però insomma, di fatto ci troviamo di fronte già a qualcosa di costruito con dei punti precisi. E quindi insomma è tutto un attimino difficile. Beh, ho fatto questa premessa perché volevo dire questa cosa. Io personalmente trovo che ci siano, che ci sia un grosso rapporto tra, grosse affinità fra l'alimentazione, la salute e la progettazione, perché per una questione anche di coerenza, se non altro, perché così come ovviamente cerchiamo alimenti biologici, eccetera, come nel campo della salute cerchiamo magari anche medicine alternative, o comunque cerchiamo di ricorrere ai farmaci solo quando è strettamente necessario, non vedo perché nella nostra casa non dovremmo partire dagli stessi principi nella casa in cui viviamo, nell'ambiente in cui viviamo. Quindi dovrebbe essere abbastanza normale impostare tutto secondo certi criteri, no? Ripeto, purtroppo non è così. Vi faccio un esempio banalissimo, però così giusto per farvi capire quello che voglio dire. Io arrivo da Milano e ovviamente molte cose sono fatte solo ed esclusivamente a livello commerciale, come sapete, e ho provato a staccare dalla metropolitana le locandine, quelle dove si vendono gli appartamenti, classe A, eccetera, e con dei colleghi li abbiamo un po' studiati. Allora, rispetto a quello che viene proposto, c'è poco, nel senso che molto spesso gli spazi non sono ben distribuiti, le aperture non sono ben distribuite, non sono neanche dimensionalmente, non corrispondono neanche dimensionalmente a quello che viene dichiarato. Ovviamente non sempre, adesso non voglio fare ovviamente accusare nessuno, però questo è per dimostrare che si vende un po' di tutto, invece noi dobbiamo stare attenti, e soprattutto quando ci mettiamo noi a costruire un qualche cosa o a progettarlo, ci affidiamo a qualcheduno, valutare nel limite del possibile che questa persona sia attenta a determinate cose. Ok, fatta questa premessa, direi di... premessa, partirei da una parola chiave. Partiamo da una parola chiave. Allora, la parola è equilibrio. Tutto ruota intorno al concetto di equilibrio. Perché equilibrio? Allora, adesso io voglio raccontarvi una cosa che secondo me è affascinante e che è alla base un po' di tutto, diciamo, della grande, cioè è fondamentalmente la base della grande armonia che vige in natura e che è quello che noi dobbiamo fondamentalmente copiare. È un ritorno a qualcosa che già succedeva nell'antichità, cioè gli antichi erano più bravi di noi in questo senso, copiavano dalla natura, no? Noi abbiamo un po' perso questa cosa. E perché? Allora, perché sappiamo che nella natura c'è vige un perfetto equilibrio, no? Quello che viene chiamato ordine cosmico. E questo ordine, questo grande equilibrio fra le varie parti è un po' difficile da, diciamo, per gli umani è un po' difficile da comprendere, però noi sappiamo che è regolato da precise leggi matematiche. In particolare, diciamo, c'è un rapporto fra le cose che è dato, adesso, è una cosa un po' particolare, dovremmo spiegare a livello proprio geometrico, però diciamo che oggi non è il caso. È un rapporto matematico, cioè un rapporto fra le dimensioni equivalente a 1,618, un rapporto fra le varie parti che è considerato da sempre, dalla notte dei tempi, come diciamo il canone di bellezza assoluto, no? Il rapporto armonico fra le cose. Vi faccio degli esempi giusto per capire di cosa stiamo parlando. Scusate, devo dire la verità, sono un po' emozionata, lo ammetto, perché sono molto contenta di poter partecipare a questa cosa, anche se io di conferenze in realtà poi ne faccio altre, però in questo ambiente la cosa mi emoziona abbastanza. Allora, inutile negarlo. Allora, se parliamo di questa proporzione. Questa proporzione in realtà si chiama, cioè viene chiamata di proporzione aurea, perché è una proporzione addirittura che dagli antichi veniva questa proporzione era data, questo numero veniva dato una valenza divina, infatti si chiama numero d'oro o sezione aurea, insomma forse ne avete anche sentito parlare. Ed è un rapporto fra le dimensioni che ritroviamo in tantissimi monumenti antichi. Per esempio, la piramide di Cheope ha un rapporto fra la base e l'altezza, ha una base di 230 metri per 145 di altezza. Il loro rapporto è 1,58, che è molto vicino all'1,6. Naturalmente ci sono, diciamo, dobbiamo calcolare un po' gli arrotondamenti. I megaliti di Stonehenge, di cui tutti avete sentito parlare, diciamo, il rapporto fra i due cerchi virtuali che vengono formati, insomma, dalle pietre di Stonehenge, hanno un rapporto tra di loro di molto vicino 1,6. Partenone di Atene, rapporto che si ritrova non solo nella planimetria ma anche, diciamo, nei fregi e in altre. E poi non solo, adesso io qua sto facendo degli esempi di manufatti, di cose realizzate dall'uomo, ma questo rapporto è presente nella natura. La cosa, diciamo, l'aspetto affascinante di questa cosa è che questo rapporto è presente nella natura, quindi la natura è meravigliosa, no? Fa delle cose stranissime. E poi è stato ripreso dall'uomo, è stato studiato per esempio da Leonardo da Vinci. Tutti voi penso avete visto almeno una volta l'uomo vitruviano, che è proprio uno studio delle perfette proporzioni umane fatto da Leonardo da Vinci. La Gioconda ha, diciamo, il viso che può essere scomposto in rettangoli aurei. Quindi, diciamo, in realtà fino ai giorni nostri, dove tutto sommato praticamente per colpa tra virgolette del business, no? Tanti altri valori, altre cose sono andate perse, in realtà questa proporzione importantissima è sempre stata ripresa e studiata. E per farvi un esempio banale dei giorni nostri, diciamo, a un certo punto qualcuno ha dovuto decidere di che dimensioni fare le tessere, no? Bancomat piuttosto che, ecco, questa qui per esempio, che è un mio tesserino, è 8,5 cm per 5,3, scusate, il rapporto è di 1:6. Poi ci sono, poi se, cioè, potete fare anche con, non so, il codice fiscale, potete fare la verifica, non sono delle misure, diciamo, riprese, perché appunto è un, diciamo proprio in funzione di questo canone di bellezza assoluta, di rettangolo perfetto, no? Poi logicamente ci sono, diciamo, delle degli arrotondamenti dovuti anche al discorso di produzione, standard, eccetera, insomma, però questo per dire che è una cosa che in qualche modo ritroviamo ancora oggi. Però la cosa veramente, diciamo, affascinante è quella che riguarda la natura, perché purtroppo qui oggi non si può proiettare, non c'è questa possibilità. Però se poi così per curiosità avrete voglia di andare a girare un po' su internet, io ho questa immagine così da farvi vedere. Se volete girare un pochino vi renderete conto di come questa proporzione si ritrova dappertutto, cioè qui c'è il DNA che si riproduce secondo una proporzione aurea. Questo qui è un cavolfiore, ma come il cavolfiore tantissime, cioè, diciamo meno male tutte le foglie, comunque insomma gran parte della natura si riproduce secondo questa proporzione, che ovviamente può essere dimezzata, moltiplicata, no? Ha una sua, però è una proporzione che permette la crescita dei vegetali, per esempio. Questo qui è un cavolfiore con rami spiraliformi, che vabbè è bellissimo da vedere, diciamo, se analizzato in particolari, e ha questo tipo di crescita. Oppure un'altra cosa che è molto famosa, che probabilmente avete visto in giro, è la conchiglia del nautilo, che ha questo, diciamo, andamento, questa progressione, e diciamo che è considerata la spirale logaritmica naturale per eccellenza, insomma. Ma sono tantissimi gli esempi. Potrei fare un altro esempio relativo, per esempio, al corpo umano. Se voi moltiplicate per 1,6 la distanza dalla punta dei piedi all'ombelico, questa vi dà più o meno l'altezza di un uomo adulto, di proporzioni normali, diciamo. Quindi è tutta una riproposta di questo, appunto, questa proporzione. Addirittura, così, una curiosità, è stato studiato il viso di George Clooney, perché, visto che piace così tanto a tutti, sembra che appunto ci hanno ritrovato una certa proporzione che riconduce un po' all'ideale di bellezza assoluta, una proporzione molto vicina alla proporzione aurea nelle varie parti che compongono il viso. Quindi questo potrebbe essere un motivo del suo successo, ecco, il fatto di... Allora, perché vi ho raccontato questa cosa? Che, ripeto, adesso io oggi su molte cose, diciamo, darò degli accenni, perché io ho preparato degli incontri anche sul Feng Shui e su altre cose, diciamo, un pochino più mirate, no? Però, diciamo, poi oggi mi è stato chiesto, diciamo, di fare una panoramica un pochino più generale. Sono tanti argomenti, tanti argomenti che poi fanno parte del, diciamo, fondamentali per la progettazione, che poi magari, se appunto avrete voglia, potete andarvi tranquillamente a sviluppare da solo. Comunque, non so, possiamo anche sentirci via mail, vi posso dare delle altre informazioni. Adesso tocchiamo un po' vari punti. Perché abbiamo parlato di proporzione aurea? Perché noi dobbiamo sempre tenere conto di questa parola equilibrio. Quindi noi sappiamo che la natura, nella natura vige una perfetta armonia, e quello che noi dobbiamo trasferire nel nostro progetto, quello che l'architetto deve trasferire nel progetto, è questo concetto di armonia, no? Quindi nel rispetto della natura e armonia fondamentale, armonia fra gli spazi, perché addirittura ci sono delle correnti psicologiche, diciamo di psicologia, degli studi psicologici, che hanno dimostrato che la forma influenza le relazioni. Quindi come vengono, diciamo, rapportati tra loro gli ambienti dell'abitazione, ma non solo gli ambienti fisici, nel senso le stanze, anche gli spazi virtuali, quindi non so, parti del soggiorno, piuttosto, è molto importante creare un equilibrio tra i vari spazi, no? Nell'assetto planimetrico generale della casa, e quindi avvicinarci molto a questo concetto di proporzione aurea. Ma non solo, ovviamente noi parliamo di ventilazione, di areazione, cioè di illuminazione, quindi la proporzione delle finestre, quindi ci sono tutta una serie di aspetti che devono, quindi diciamo che possiamo, come prima cosa, nel momento in cui prendiamo in mano un progetto nuovo, ripeto, nel caso di una ristrutturazione, di un intervento su qualcosa di esistente, è tutto un pochino più complicato, ma ci si può avvicinare, partendo come prima base da questa, no? Cerchiamo di riprodurre nella nostra, diciamo, nella nostra, nel nostro disegno planimetrico, una proporzione, un rapporto fra gli spazi giusto, corretto. E poi naturalmente, dato che è nostra intenzione, diciamo, salvaguardare il più possibile il pianeta e andare in una direzione più bio possibile, ci dobbiamo rifare a quelle che sono, diciamo, tutte le cose prese in considerazione dalla bioarchitettura. Quindi produrre, cioè quindi utilizzare sistemi, impianti e materiali il più possibile, diciamo, ecologici, insomma, o meglio dire forse il meno nocivi possibile, no? Perché a volte siamo anche un po' costretti. Queste, diciamo, tutto questo studio alla base del progetto fa sì che ci si avvicini il più possibile ad una dimensione di benessere abitativo ottimale, perché torno alla, diciamo, alla premessa che ho fatto inizialmente, come nell'alimentazione o per altri, diciamo così, settori della nostra vita siamo, vogliamo a tutti i costi utilizzare prodotti di un certo tipo per stare meglio, per avere una vita più sana, la stessa cosa vale nell'abitazione, no? Quindi diciamo è proprio finalizzato, il tutto è finalizzato al raggiungimento di un miglior benessere abitativo possibile. Quindi questo è un po', diciamo, un discorso generale che volevo fare come base di partenza. Allora, adesso vi elenco alcune cose che, diciamo, così, che si possono utilizzare o si devono utilizzare in una fase, durante un progetto, nella realizzazione di, una, di un edificio, di un appartamento. Allora, innanzitutto abbiamo detto, profilo planimetrico aureo, no? Cioè quindi cosa fondamentale, diciamo armonia fra gli spazi, la ventilazione e l'illuminazione sia naturale che artificiale ovviamente sono molto importanti. Quella naturale, vabbè, sappiamo insomma che ovviamente deve essere, tra l'altro ci sono anche normative comunali eccetera che impongono il minimo necessario, però insomma un conto è il minimo necessario e a volte la cosa va un attimino calibrata sulla realtà del posto, no? Insomma, voglio dire, per fare un esempio banale, nei paesi del nord, in Norvegia, in quei paesi si usano finestrature molto grandi perché logicamente hanno bisogno di, diciamo, far entrare luce nell'appartamento. In altri posti addirittura dobbiamo fare l'eccesso di paesi africani, diventano quasi delle fessure le finestre, no? Perché c'è bisogno di far passare aria, di permettere un riciclo di aria, però non deve entrare la luce del sole, il caldo del sole. Quindi anche questa cosa va ovviamente studiata sulla base del luogo nel quale ci troviamo. E anche la luce artificiale è importante, perché allora lo viviamo ovviamente nella nostra vita, non è diciamo cadenzata sulla luce normale, nel percorso normale, la giornata naturale, diciamo, il sole tramonta e non si va più a dormire come una volta, no? Quindi la luce artificiale in realtà riempie parecchi momenti della nostra giornata, quindi è molto importante studiare una luce corretta. La luce, tra l'altro, ultimamente, cosa molto importante, stanno avendo molto sviluppo, un grande sviluppo i LED, la luce al LED di cui avete sentito parlare, che è un'ottima cosa. Adesso c'è tutto uno sviluppo, uno studio ancora intorno a questo discorso, però è molto importante perché permette anche un basso consumo, quindi permette di ottenere soluzioni di vario tipo, da una luce incandescente a punti luce, insomma, sia per interni che per esterni, naturalmente. Perché ecco, io parlo di casa ovviamente perché è una cosa che magari ci interessa più da vicino, però noi non viviamo solo la casa, noi viviamo dentro e viviamo fuori, quindi queste cose, diciamo, questo concetto di equilibrio va applicato in casa nostra nel miglior modo possibile e andrebbe applicato sempre anche fuori, cioè quando viene costruito lo spazio esterno dell'uomo, no? Dove vive l'uomo. Quindi la luce artificiale, il discorso sulla luce artificiale vale dentro e vale anche fuori, no? Quindi bisogna cercare di ottenere un giusto livello di luminosità. Logicamente ci sono delle zone della casa che diciamo devono essere illuminate in maniera più, come dire, devono essere più illuminate o comunque con della luce più distribuita in varie zone, come può essere un soggiorno, che deve avere una luce ovviamente abbastanza potente, poi magari delle zone, la zona lettura, la zona, insomma, si possono diversare, altre zone come può essere la zona notte, magari diciamo hanno un tipo di illuminazione diversa, più soft, no? Quindi si possono fare delle diversificazioni anche di questo tipo. Poi un'altra cosa fondamentale quando noi ci mettiamo a progettare il nostro appartamento o la nostra casa è il discorso relativo al, diciamo, ai materiali, cioè ottimizzare le prestazioni dei materiali. Ottimizzare cosa vuol dire? Vabbè, innanzitutto scegliere, vabbè, ovviamente materiali naturali, trattati con prodotti naturali, perché per esempio le travi in legno, che molto spesso si trovano, non sempre sono trattate con prodotti, diciamo, naturali e non inquinanti. Quindi magari abbiamo delle bellissime travi in legno, ma che bello le travi in legno, però magari sono trattate, ovviamente sono trattate dalla conservazione, eccetera, con delle vernici tossiche piuttosto, quindi anche questa è una scelta da fare. Bisogna, diciamo, comprare materiali dalle aziende che producono materiali che sono completamente, no, biologici, comunque insomma il meno inquinanti possibile. Poi per esempio un'altra cosa importante è la provenienza dei materiali, perché adesso faccio l'esempio della costruzione di un'abitazione, però ripeto, insomma, il discorso che poi possiamo vedere nella ristrutturazione. Compriamo dei materiali e è importante sapere da dove arrivano, cioè quanti chilometri devono fare questi materiali per arrivare a noi, no? Perché non cercare di diciamo, contenere anche le distanze. E poi un'altra cosa fondamentale è la possibilità di riciclare e il percorso di smaltimento finale. Sono tutte cose fondamentali, ovviamente sono scelte che solitamente non fa il committente, che fa l'architetto, comunque, cioè sono scelte, però diciamo se vogliamo avere una casa biologica sono scelte, diciamo, che vanno prese in considerazione. Quindi questo è un altro aspetto. Poi un'altra cosa fondamentale, vabbè, questa diciamo se ne parla un pochettino di più, sono tutto quello che riguarda gli impianti. Allora, gli impianti sono fra le cose più complicate, insomma, di un'abitazione, diciamo, no? Sono sia dal punto di vista economico, perché incidono molto, è difficile decidere anche, no, a volte che tipo di impianti, o come scegliere gli impianti, insomma, riscaldamento a pannelli piuttosto che, insomma, l'impiantistica in generale. Beh, oggi si parla tanto di fonti rinnovabili, quindi insomma bisogna andare in quella direzione, anche se le fonti rinnovabili oggi non possono sopperire il fabbisogno di energia che abbiamo, perché comunque insomma tutti sanno, tutti quanti sappiamo che sprechiamo troppa energia, però nessuno vuole andare in giro con la carrozza, no? Quindi insomma diciamo che bisogna comunque sicuramente considerare tutto quello che riguarda, diciamo, questi sistemi alternativi dovuti alle fonti, queste fonti alternative, sicuramente come integrazione di sistemi, diciamo, tradizionali. Per esempio, non so, allora conosciamo, ce ne sono tanti, faccio alcuni esempi di quelli un pochino più, diciamo, così si sentono, fotovoltaico, che ormai l'Italia è sempre un po' il fanalino di coda, però inizia a essere abbastanza diffuso. Ecco, col fotovoltaico che richiede una certa superficie, perché non è il pannello solare che vedete, i due pannellini che vedete sui tetti delle case sono per l'acqua calda, quindi bastano pochi pannelli per riscaldare un serbatoio di acqua calda, in poche parole, per dirla in sintesi. Il fotovoltaico che produce energia ha bisogno di superfici un po' più grandi, quindi è più facile vederli magari sui capannoni delle aziende piuttosto che a terra. Adesso ci sono molti impianti, sono stati fatti parecchi impianti a terra, soprattutto in alcune zone d'Italia. Quindi ha bisogno, però il fotovoltaico in alcune case, non so, per esempio mi vengono in mente delle situazioni che mi è capitato di anche quali metodi lavorare, non so, a livello condominiale, eccetera, possono veramente sopperire a una parte del fabbisogno, non so, tutta la zona, diciamo, l'area condominiale, per esempio di una palazzina, sulla quale ho lavorato un po' di tempo fa, tutta la zona box, l'area condominiale, è tutto collegato al fotovoltaico, quindi quella è energia che non viene consumata, di energia, diciamo, non viene consumata energia tradizionale dal condominio perché viene utilizzato il fotovoltaico. Quindi queste soluzioni si possono trovare. Oppure, per esempio, un'altra cosa che si vede ogni tanto è l'eolico. Si vede ogni tanto qualche centrale eolica che, fra l'altro, diciamo, magari esteticamente non sono la cosa più bella del mondo, no? E ci sono delle polemiche anche quando si vogliono, quando vengono, viene previsto l'impianto di questo tipo, ci sono tante polemiche. Però adesso, poi per carità, non voglio scendere su questioni vicine alla politica o roba del genere, perché queste sono altre cose. Però mi viene in mente, per esempio, un po' di tempo fa, che c'era stata una di queste polemiche. Io sono ovviamente, penso sia scontato, sono ovviamente assolutamente pro rispetto dell'ambiente in tutti i sensi, anche dal punto di vista estetico. Però mi viene in mente questa polemica incredibile che c'era stata un po' di tempo fa sulla possibilità di fare un impianto eolico in mezzo al mare Adriatico, adesso non mi ricordo se davanti alla Puglia, al Molise o che cosa, perché si voleva fare di una piattaforma. E c'è stata una polemica pazzesca, ma in particolare i verdi, insomma gli ambientalisti, perché erano terribili, bruttissime, però voglio dire, insomma, a me faceva un po' sorridere questa polemica, perché di fatto è molto meglio quello di una piattaforma petrolifera o di una centrale che produce un sacco di inquinamento e un'altra, cioè voglio dire, tutto sommato, sì, sono brutte, non saranno belle, però insomma ci sono dei punti dove le possiamo fare, no? Delle zone dove le possiamo fare. Quest'estate, vabbè, io sono stata in Sardegna ci sono di questi impianti eolici, sono passata vicino a uno di questi impianti che tra l'altro è abbastanza grosso, so che lì ci sono state impedite le nostre polemiche per questa cosa, sinceramente è una valle lunga, non hanno rovinato nessuna zona costiera, niente, cioè, quindi mi chiedo, no? Tutto sommato queste cose portano energia pulita, portano anche benefici economici al comune, ai comuni che decidono di installare queste cose, quindi insomma sono polemiche che lasciano il tempo che trovano, però questo è per dire che, cioè, se vogliamo andare in una certa direzione dobbiamo accettare anche che possano esserci degli impianti che sono grossi e che sono, no, eolico è una cosa che funziona. Ovviamente ha, diciamo, la parte, l'aspetto negativo è quello che magari è un po' antiestetico. C'è anche il mini eolico, che sono dei piccoli impianti, diciamo, per il privato, anziché piccolo impianto di pannelli fotovoltaici, si può fare il mini eolico, insomma, non è molto diffuso, ma c'è. Poi va bene. Abbiamo l'energia geotermica, le biomasse, no? Vabbè, penso che probabilmente sapete tutti cosa sono. Il geotermico sono degli impianti, delle tubazioni che utilizzano il calore della terra, quindi, e con questo, per esempio, ecco, per esempio a Milano è capitato di ristrutturare dei loft, qualche tempo fa, adesso scorporo il naso per il recupero dei loft, e hanno utilizzato proprio questa, è stata utilizzata l'energia geotermica per l'impianto di raffreddamento e riscaldamento degli ambienti, quindi anche questa è un'altra cosa che si può fare. Le biomasse, che sono, vabbè, come sapete, gli scarti animali, vegetali, con le biomasse si può produrre energia, si possono produrre anche oli vegetali, come anche per esempio il biodiesel, quindi insomma i sistemi sono tanti, no? Ovviamente adesso io ho fatto panoramica generale di quello che si può fare, poi nel caso dell'abitazione insomma bisogna chiaramente le scelte calibrarle su quella che è la realtà, no? In un'abitazione c'è bisogno di un fabbisogno minore decisamente rispetto magari ad altre situazioni, quindi, però si possono fare delle scelte che vanno in quella direzione, anzi si devono fare le scelte che vanno in quella direzione. Ecco, un'altra cosa per esempio importante sempre diciamo nell'ambito della bioarchitettura sono, diciamo, ridurre al minimo le opere di movimento terra, o comunque quando si ha la necessità di fare degli scavi eccetera si dovrebbe cercare di utilizzare in cantiere la terra, la ghiaia, insomma quello che è stato rimosso, insomma cercare di riutilizzare. utilizzarlo in altre situazioni. Oppure, per esempio, un'altra cosa molto intelligente che fortunatamente si comincia a fare è il recupero delle acque piovane, cioè far confluire l'acqua piovana dei tetti anziché a terra in appositi serbatoi, pozzetti, insomma un impiantino che poi permette di irrigare il giardino piuttosto. Addirittura ci sono dei sistemi che permettono, diciamo, poi di utilizzare la lavatrice, la vena, però ci si può impiegare. Soprattutto questa cosa è molto utile in zone poco piovose, dove magari per 2 mesi, 2 o 3 mesi non si hanno precipitazioni. Con questi serbatoi si può sopperire all'acqua, diciamo, alla mancanza di acqua piovana. Ecco, poi un'altra cosa molto interessante, questa sta andando parecchio, è la realizzazione delle serre bioclimatiche. Allora, per serra bioclimatica, vabbè, avete presente, ci sono a volte anche nelle fiere, vengono esposte, ci sono delle bellissime serre che chiamano giardini d'inverno, sono bellissime, no? Di fatto sono dei locali stupendi, completamente trasparenti, dei giardini. Non si intende solo quello, cioè quello sì, quella può essere una serra bioclimatica. Si intende anche, per esempio, la chiusura, diciamo così, in termini di logge o balconi, o attraverso l'utilizzo di diciamo vetri a taglio termico, serramenti a taglio termico, che permettono una protezione dal freddo dell'inverno, quindi un isolamento dal freddo dell'inverno e una protezione dal sole caldo dell'estate, calore del sole estivo, no? Sono ottimi per il risparmio energetico anche, so di serre fatte bene di una certa dimensione che hanno permesso dei grossissimi risparmi anche sul funzionamento dei termosifoni del impianto di riscaldamento, perché contribuiscono tantissimo. E tra l'altro la regione Lombardia da un po' di anni, insomma, mi sembra dal 2004, non vorrei sbagliare data, comunque, diciamo, permette la realizzazione di serre bioclimatiche senza il pagamento di oneri di urbanizzazione. In pratica è come se non facesse volume, no? Si dice in gergo non fa volume. Quindi in molti casi è stato realizzato, perché di fatto non sono considerate residenziali, sono considerate serre, però di fatto sono dei locali. E comunque sono, appunto, non si pagano gli oneri comunali, eccetera, quindi il costo, diciamo, è ammortizzabile. E, insomma, quindi, diciamo, le cose che possiamo fare, no, per, tra virgolette, costruire una casa bio sono tante. Però vediamo, magari un pochino più così, una cosa che forse può interessare un pochino di più, che cosa possiamo fare all'interno del nostro appartamento, della nostra casa, no, per avvicinarci non solo alla bioedilizia, ma anche a quel benessere abitativo di cui parlavamo prima, no? E quindi, partendo dall'ipotesi di aver, come dire, riorganizzato la nostra casa tenendo conto di questo equilibrio fra le proporzioni, no? Questa proporzione aurea, o comunque, insomma, un equilibrio, un'armonia fra i nostri spazi. Diciamo che questa cosa l'abbiamo fatta, che lo dico così perché purtroppo insomma nel costruito ci sono delle realtà, soprattutto in un certo periodo storico, insomma, è stato costruito proprio solo per motivi di necessità, no? Con molta speculazione, quindi sono delle realtà veramente un po' difficili, insomma, poi, no? Però insomma ci si può provare. E allora, gli spazi, l'importanza degli spazi, sia dell'equilibrio, ma gli spazi, la forma dello spazio ha anche un significato simbolico. Quindi quando noi decidiamo di, non so, per esempio, faccio anche qui degli esempi, tanto per, non so, per esempio l'ingresso, no? Noi decidiamo come vogliamo fare l'ingresso della nostra abitazione. Allora, l'ingresso della nostra abitazione è importantissimo, perché l'ingresso è la soglia, è il punto di passaggio fra il dentro e il fuori. Fuori abbiamo una realtà, tra virgolette, sconosciuta, comunque è una realtà che in qualche modo, diciamo, ha dei pericoli, no? Diversi rispetto a quelli che abbiamo. I pericoli ci sono anche all'interno dell'appartamento, però nel nostro appartamento, noi, nella nostra casa, ci sentiamo sicuri, tranquilli. Quindi c'è proprio questo passaggio, no? Tra dentro e fuori, e questo ingresso deve essere definito, no? In qualche modo. Quindi in alcuni casi ci ritroviamo davanti ad un ingresso buio, un corridoietto, piuttosto che, e questo non è bello, perché va bene delimitarlo, però insomma passare, no? In una zona così angusta, e soprattutto quando si, per esempio, decide di ricevere degli ospiti che devono avere, insomma, si deve dare un senso di, diciamo, di apertura, no? Nei confronti di queste persone. Quindi questo ingresso così non va bene, però non va bene neanche il, diciamo, l'open space, o comunque non è bello, non sono belle quelle, no, insomma, magari poi, per carità, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, però diciamo da un punto di vista così, no, della forma e dei significati, l'ideale è definire l'ingresso, magari anche semplicemente con delle piccole quinte, con dei controsoffitti, con dei fare, cioè anche in maniera soft, però questa zona di passaggio è importante che sia definita, no? Rimarcata. E poi, diciamo, entriamo in linea di massima, entriamo in quello che è il centro della nostra casa, che è il soggiorno. E la forma che rappresenta il centro è il cerchio, no? La forma, diciamo, della socializzazione, della, diciamo, per eccellenza, no? Proprio la parte centrale, il fuoco della nostra casa è il soggiorno. E il soggiorno, proprio perché ha questa funzione per noi, nostra, ma anche per quando riceviamo qualcuno, no? Quindi questa funzione di socializzazione, di scambio di idee, eccetera, deve essere accogliente. Allora qua si può giocare con la forma del locale, diciamo così, ma si può giocare anche con gli arredamenti, no? Perché disporre, per esempio, i divani in un certo modo rispetto ad un altro, si danno significati diversi al nostro soggiorno. Cioè, immaginate, solitamente quando viene messo, non so, disposto un divano contro una parete, lì solo sul letto con la televisione davanti e basta, cioè questo non è senz'altro un luogo di socializzazione, no? Mentre magari vi faccio degli esempi, poi tutto va, ripeto, sempre, insomma, visto su quella che è la realtà della situazione. Mentre posizionare i divani, per esempio, a L o a U, no? Ovviamente danno questo, creano questa quest'area, no? Dedicata a ricevere anche gli amici, e all'interno di uno stesso locale, per esempio del soggiorno, che solitamente è quello più grande, ci possono essere varie zone. Quindi individuare virtualmente delle zone che, attraverso l'uso degli arredi, poi vedremo i colori, per esempio, possiamo proprio cioè a livello virtuale, ma identificare, no? Quindi questo è molto importante. Per esempio, ecco, una forma bellissima che però purtroppo si trova poco negli appartamenti è la spirale. La spirale ha un significato proprio di raccolta, diciamo di protezione, no? Però logicamente è una forma che si ritrova poco. È carino, per esempio, tentare di riproporla quando ci sono magari delle zone studio, laboratorio, delle zone di questo tipo dove ci si va un po' a concentrare, no? Allora è una forma molto carina da proporre, perché ha un significato, diciamo, è molto forte come forma. Ecco, per quanto riguarda i materiali, faccio il discorso che ho fatto prima per, diciamo, i materiali così in generale, gli esterni, vale anche in questo caso. Allora, utilizzare vernici naturali, prodotti naturali, ce ne sono di tantissimi tipi, e diciamo ultimamente sono molto diffuse anche quelle naturali, appunto, quindi cercare di utilizzare queste. E quando, per esempio, nell'acquisto degli arredi, dei mobili, eccetera, sì, d'accordo, i mobili sono in legno, però bisognerebbe verificare, o comunque stare attenti ai collanti e alle vernici che sono state utilizzate per trattare quei mobili. Sono quelle, solitamente, che sono quelle nocive. E, non so che ore sono, io sono in perfetto orario. Ma se interrompetemi, se c'è qualche cosa che volete dire. Ecco, poi una cosa estremamente importante, fondamentale nella casa, è il colore. Allora, questi qua poi sono, diciamo, tutte teorie e filosofie di vita che sono trovate anche nel Feng Shui, insomma, no? E in altre, anche in altre forme di pensiero, diciamo. Perché fondamentalmente, cioè, se ci pensate, torniamo all'equilibrio, la parola chiave di cui parlavo all'inizio, no? Cioè come diciamo, utilizzare tutti i materiali, i colori e diciamo, tutto ciò che ci serve per progettare la nostra casa in maniera equilibrata, in maniera corretta, no? Quindi anche il Feng Shui parla tantissimo dei colori, oltre che della disposizione degli arredi, eccetera. So che ci sono altri interventi in questi giorni su Feng Shui, su altre cose, quindi volutamente, insomma, non mi addentro. Allora, per il colore, allora, ovviamente è fondamentale, diciamo, tutti sappiamo che i colori chiari tendenzialmente danno luce, dilatano, i colori scuri incupiscono e rendono gli ambienti più bui, no? E questa è una regola un po' generale. Diciamo che poi la scelta dei colori, allora io parto sempre da questo presupposto, che la scelta dei colori è soggettiva, perché non siamo fatti tutti nello stesso modo, così come anche, se vogliamo, faccio un piccolo passo indietro, quando parlavo della responsabilità anche dell'architetto, no? Che deve riuscire a mediare fra varie cose, deve anche partire da una base fondamentale, cioè le esigenze del committente, i gusti del committente, perché ovviamente non siamo tutti uguali, no? Però ci sono, diciamo, delle regole generali, no? Che dobbiamo così prendere un po' come consiglio. E allora, tutte le tonalità dell'azzurro, del verde, diciamo, quindi sono quelle che danno un senso di, diciamo, danno un effetto calmante, rilassante, sono quelle più adatte alla zona notte. In particolare le tonalità, quasi tutte, quelle dell'azzurro e del verde, vanno bene. In particolare, per esempio, gli azzurri sono adattissimi per le sale da bagno, perché l'azzurro ricorda l'acqua, no? Quindi ha un senso di fresco, di pulito, e quindi questi colori hanno proprio questo effetto rilassante, insomma, non sono fastidiosi, vanno benissimo per la zona notte. Invece, per esempio, ecco, poi abbiamo il marrone, che è un colore un po' trascurato. Il marrone è il colore della terra, dà senso di stabilità, e non è un caso che moltissimi pavimenti, cioè la pavimentazione in generale, o comunque tende a queste tonalità, no? Di marrone, di giolino. E poi abbiamo, per esempio, i colori vivaci, che invece in genere vengono utilizzati per la zona giorno. Per esempio il giallo, spesso utilizzato nei soggiorni, va benissimo, magari nelle giuste quantità, e soprattutto nella giusta tonalità, perché il giallo è un colore che, cioè alcune tonalità di giallo portano alla nausea, possono portare fino ad un senso di nausea, quindi sbagliare il giallo è brutto. Difficilmente troverete degli ambienti che sono, diciamo, già da soli fonte di un po' di tensione, tipo, non so, l'abitacolo di un aereo. Difficilmente troverete ambienti di questo tipo pitturati di giallo, perché il giallo già da solo, insomma, però nelle zone soggiorno, perché comunque il giallo dà vivacità, no? Dà movimento, quindi nelle zone soggiorno, magari una parete, non lo so, ecco, in alcuni ambienti va benissimo, è un colore luminoso. E poi vabbè, abbiamo per esempio il rosso, che adesso vedete alcuni, no? Però possiamo andare a vedere anche, vederne anche altri. Il rosso va bene, piace a tutti, è il colore della vivacità, l'eccitazione per eccellenza, preso in piccole dosi, perché il rosso, assolutamente, il rosso preso in grandi quantità reca disturbo. Sui colori ci sono tanti studi, no? Tante forme di pensiero, c'è la cromoterapia, eccetera, insomma ci sono... ci sono anche proprio delle teorie, diciamo, viene utilizzato a fini produttivistici, cioè ci sono proprio delle forme di studio che stabiliscono quali colori usare, dove, quando, a fini produttivistici. Pensate che il rosso è stato, diciamo, verificato che all'interno dei sommergibili una luce rossa soft, molto delicata, aumenta il rendimento dei marinai, permette un aumento del rendimento dei marinai, quindi molto spesso c'è questo accesso. E viceversa, per esempio, vi faccio questo esempio. famosa casa automobilistica giapponese, gli architetti di questo stabilimento hanno progettato tutti i bagni completamente rossi, un rosso fortissimo, perché è stato verificato che dà fastidio stare lì, ogni tanto non ci stanno e quindi risparmiano. No, sono cose vere queste, cioè viene utilizzato proprio a fini produttivi, cioè che questi magari sono, questo della, dei giapponesi può essere utilizzato, una cosa, però è vero. Eppure, vabbè, poi perché questo è un argomento che volendo potrebbe essere un argomento di un unico incontro, perché sul colore c'è tantissimo da dire. Sono stati fatti tantissimi esperimenti anche, non so, in America, non so, hanno fatto per esempio sollevare a delle persone la stessa valigia pitturata tutta di bianco e tutta di nero, e tutti hanno sostenuto che quella bianca fosse più leggera rispetto a quella nera, leggermente. E poi per esempio, non lo so, gli stessi oggetti con lo stesso peso, colorati di blu e di rosso, sono stati da tutti, quelli rossi sono stati da tutti ritenuti più pesanti. Il rosso dà un senso di, diciamo, allungamento del tempo anche, cioè lo stesso oggetto messo lì 10 minuti, se è rosso, diciamo, si percepisce un tempo più lungo, no? Quindi il rosso è un colore che, per esempio, a me piace anche nelle abitazioni, io personalmente, poi insomma, cerco di seguire ovviamente, diciamo, le esigenze del cliente, però preferisco una casa colorata rispetto ad una casa anonima, bianca, tutta grigia, e perché comunque, insomma, la casa deve essere personalizzata dal mio punto di vista. Il rosso è un colore che utilizzo, però va utilizzato nel modo giusto, quindi magari può esserci una parete in alcune case, magari il rosso un po' più tendente al diciamo al bordone, ecco, comunque un pochino più spento, oppure per esempio va bene per le finiture, per l'oggettistica, cioè per delle cose, no? Delle parti, perché appunto è un colore molto che incide moltissimo. E niente, poi c'è ancora una cosa da dire, poi magari non so se volete anche fare delle domande o delle curiosità. Pensate che allora, rispetto a tutto quello che ho detto io fino adesso, cioè il discorso della, vabbè, legato alla bioarchitettura e non solo, perché per vivere, cioè, il mio pensiero è che vivere in maniera sana all'interno di un appartamento o di una casa, insomma, non ha, diciamo, utilizzare la bioarchitettura così in maniera molto meccanica, no? Utilizzo questi materiali, non basta, quindi c'è dietro un altro tipo di filosofia, no? di progetto. Però insomma, pensate che rispetto a quello che ho detto sui materiali eccetera, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ha stabilito che l'inquinamento presente all'interno delle abitazioni è addirittura maggiore rispetto a quello esterno. Addirittura. Per quale motivo? Vabbè, a parte l'aria che entra, che magari è un po' inquinata, ma a parte quello, ci sono tutta una serie di materiali, di sostanze, prodotti utilizzati, alcuni anche molto, molto nocivi, come la formaldeide, il radone, il benzene, quindi utilizzati nei materiali, negli arredi che abbiamo in casa, no? Dal 1983 si parla di una sindrome da costruzione malsana, cioè è stata ufficializzata questa sindrome, dovuta a tutte queste cose nocive che abbiamo all'interno di casa, a partire dalle cose più, diciamo, tra virgolette naturali, la buffa, l'umidità, l'illuminazione scarsa o sbagliata, la ventilazione scarsa o sbagliata, la tossicità dei materiali, dei collanti, degli isolanti, ecco, gli isolanti sono un'altra cosa importantissima nelle abitazioni, che contengono anche materiali molto nocivi, tessuti sintetici, l'inquinamento acustico, l'uso scorretto di apparecchiature elettroniche, quindi tutte queste componenti possono portare a dei sindromi veri e propri. E si è calcolato che circa il 40% dei materiali utilizzati normalmente, diciamo quelli tradizionali usati fino adesso in edilizia, è potenzialmente nocivo, quindi il 40% è tantissimo. Per questo che, insomma, viva la bioarchitettura, nel senso, poi io sono una persona abbastanza pratica, quindi mi rendo conto, cioè penso che parlare di cose utopiche, che facciamo tutto bio, tutto, non è possibile, non si potrà mai fare, no? Quindi bisogna penso sia più corretto ragionare in maniera più concreta e fare tutto ciò che si può fare, cioè comunque andare in quella direzione per poi le generazioni future che magari potranno fare qualcosa più di noi, no? E quindi bioarchitettura a pochi costi e per esempio, adesso vi faccio un altro esempio di come si può considerare il, perché, ecco, cosa fondamentale questa cosa che dimenticavo di dire, che oggi ci sono fortunatamente diverse leggi che diciamo in parte derivano dalle leggi europee, in parte sono anche nostre, finalizzate soprattutto al risparmio energetico, più che non alla bioarchitettura realmente, diciamo qualche, più al risparmio energetico, che sono, per carità, meno male che ci sono queste leggi, insomma, validissime. Però quando si parla di risparmio energetico, cioè allora il risparmio energetico, per esempio, nel caso di un cappotto termico in un edificio, si può ottenere in maniera bio o no? Per esempio, il cappotto termico di un edificio, faccio questo esempio perché è una cosa che mi è capitata, quindi la conosco bene. Il cappotto termico, come sapete, si può fare internamente o esternamente, no? In questo caso è un cappotto esterno proprio dell'intero edificio. Sicuramente permette un risparmio energetico. Dove ho seguito io questo lavoro nell'Interland di Milano, addirittura gli abitanti del palazzo, che poi ho risentito, sono talmente contenti di questa cosa, tengono la caldaia al minimo in inverno e addirittura qualcuno mi ha detto di tenere le finestre aperte perché hanno sentito dei benefici enormi. È stato fatto bene, è stato fatto un bel lavoro, però per motivi economici, perché purtroppo ancora oggi i materiali bio costano un pochino di più rispetto, cioè solitamente, insomma, adesso poi anche qui si sta migliorando, però per motivi di tipo economico il cappotto è stato fatto con una sorta di polistirolo, cioè un poliuretano espanso, estruso, questi materiali, diciamo tipo polistirolo, che è uno dei sistemi per fare i cappotti. Poi si può fare in mille modi, dal sughero a materiali del tutto naturali. C'è una bancarella in fondo dove praticamente promuovono un, magari vuole una caramellina, vuole una caramellina, vuole una caramella. No, scusi, no, ma c'è, che eravamo anche un bambino di 5 anni e qui sono andata prima a parlare con queste persone perché loro promuovono un tipo di isolante totalmente naturale, perché praticamente sono scarti del legno e niente, parlavo con loro, sembra anche interessante tutto, poi vabbè, metti i coefficienti di trasmittanza termica, queste cose, ci sono delle schede tecniche, me le farò dare, però io ho sollevato questa problematica, no? Del tipo che, cioè, assolutamente, cioè, a parità di spesa è chiaro che si va verso una scelta del tutto naturale, ma purtroppo per i materiali isolanti in particolare e per altre cose oggi purtroppo non è così, insomma, quelli biologici sono ancora un pochino più cari. Loro mi hanno garantito che questo tipo di prodotto assolutamente è molto economico, competitivo, e quindi mi farò dare le schede tecniche. Però diciamo, speriamo, ecco, che effettivamente si sia andato in questo senso, perché lo stesso cappotto noi lo possiamo fare con del polistirolo, chiamiamolo così, ovviamente opportunamente rivestito, intonacato, ecco, alla fine è finito logicamente, oppure con altri mille materiali biologici. E allora in quel caso abbiamo un risparmio energetico e abbiamo fatto un'operazione anche veramente a favore dell'ambiente, perché abbiamo un risparmio energetico, un risparmio economico da parte di chi ci abita, che ha effettivamente questo riscontro, e abbiamo fatto anche un'operazione a favore dell'ambiente perché abbiamo utilizzato tutti i materiali. Anzi, in quel palazzo addirittura la finitura esterna finale era il cosiddetto plasticone, una specie di, diciamo, di intonaco plastificato, diciamo così, per capirci, si chiama infatti plasticone. Quindi togliendo il plasticone e mettendo una cosa biologica avremmo fatto un'operazione, e invece abbiamo rimesso un materiale che biologico non è. Questo proprio per dire, quindi quando si parla di bioarchitettura, cioè la bioarchitettura intesa nel vero, non è sempre così, però noi dobbiamo andare in quella direzione. Probabilmente avrete sentito parlare anche di casa clima o di realizzazioni diciamo completamente bio, eccetera, fatte per esempio che fanno in Trentino, no? Sì, lì veramente sono un pochino più avanti e fanno delle cose molto belle, fanno queste case completamente in legno, dove tutto è studiato dal discorso di questo equilibrio planimetrico ed equilibrio con l'ambiente circostante, l'utilizzo di materiali del posto, biologici, impianti che sfruttano il più possibile le fonti rinnovabili, insomma è veramente andata bene, però io sono andata anche a vedere una fiera, insomma c'era una riproduzione, l'ho vista, molto bellissima, però capite che fare un chalet sul Tirolo e fare una casa a Milano sono due realtà diverse, no? Quindi questo è un esempio, no? Per farvi capire, però la cosa fondamentale è che io spero ci siano sempre più architetti come me, io parlo del mio settore, oltre che persone di altri settori, che spingono in questa direzione, no? Perché tante cose poi più pianino le possiamo ottenere. Quindi niente, vabbè, io oggi così ho avuto questo, diciamo, compito di indottrinare, fare questa cosa. Anche se non siamo noi, dovrebbero essere quelli che costruiscono le case a dover essere indottrinati, almeno nella zona di Milano anche questa. Sì, un pochino si sta andando in quella direzione, appunto anche grazie a qualche norma, qualche legge che impone. Però ho visto per esempio anche dove abito io, ai confini di Milano, una grande cooperativa sta ristrutturando tutte le case vecchie che hanno anche 90-100 anni. Ha messo i pannelli per l'acqua calda, però il cappotto è tutto di polistirolo. Per ora è ancora cosa che costa meno. Sicuramente c'è un beneficio, no, prego, però. Poi mi pare che sia uscita anche una legge, non so, qualcosa del genere, che diceva che tutte le case nuove, almeno in quella zona dove abito io, penso nel circondario di Milano, devono essere costruite da una certa data in poi, da fare anche questa parte, con un 20-30-40% che sia. Sì, adesso ci sono dei obblighi di legge che impongono sul nuovo un certo tipo di. Ma impongono il risparmio energetico. Ecco. Il risparmio energetico sì, cioè si è già, diciamo, si è già in questa fase, che è già in corso. Si ha detto prima lei, il risparmio energetico, che noi come possiamo vederlo e capirlo? Solo dai pannelli in fondo. Beh, un edificio così a colpo d'occhio non si capisce, cioè se guardare una casa in giro non si capisce di preciso cosa. Nel senso, il risparmio energetico in che cosa consiste? Nella messa dei pannelli per l'inquisito? Il risparmio energetico significa che... Sull'energia. Per sprecare meno energia elettrica, quindi ho pannelli fotovoltaici o appunto l'adozione di sistemi di vario tipo che in qualche modo possono essere sistemi integrativi anche per il riscaldamento. Infatti, per esempio, una cosa che adesso si sta tornando un po' indietro sul discorso delle caldaiette, anzi è uscita anche di recente una norma specifica, perché le caldaiette che sono state molto incentivate, no? Qualche anno fa, tutte le abitazioni con la singola caldaiette non sono controllabili né dal punto di vista dell'inquinamento, perché poi di fatto se fai i controlli li fai, se non li fai né dal punto di vista della sicurezza, quindi si sta tornando a vecchi sistemi, però la centralizzazione, però diciamo in molti casi col teleriscaldamento, che è un ulteriore passo avanti. Quindi l'importante è che nella costruzione anche i muri della casa che siano isolati, è fondamentale. In casa di alcuni anni fa fatte da costruttori per bene, lo facevano doppi con dentro la camera d'aria, quello non è un sistema di isolamento, invece adesso però lì c'è l'obbligo su queste cose, su queste cose diciamo non è che è obbligatorio fare il muro così o cos'ha, però è obbligatorio raggiungere certi valori di non superare certi valori di trasmittanza termica. Quindi per forza di cose, per non superare, devi fare il tetto isolato, isolati, quindi sei obbligato a fare determinate cose per rientrare in quei valori. Quindi quello sì, il problema è anche capire che materiali utilizzano. E non ci sono le regole, leggi. Per ora no, non si può imporre, per ora no. speriamo che, diciamo, perché allora il discorso è che una legge non può mai imporre un materiale, non può imporre un materiale, un po' come per esempio la normativa sulla sicurezza dei cantieri, adesso è un altro settore, una cosa, impone che tutte le opere durante un cantiere, nelle fasi, diciamo, di cantierizzazione, tutti i lavori devono essere fatti in sicurezza. Quindi il committente ha una grossissima responsabilità, a volte non si sa questa cosa, con il decreto dell'81-2008 è stata spostata tantissima responsabilità sul committente, con le figure coordinatori, le figure preposte alla sicurezza, hanno questa enorme responsabilità di, diciamo, assicurare che chi lavora lì deve lavorare in sicurezza. Però la legge non ti dice fai la mia vita, fai, cioè, perché non si può, perché vorrebbe dire sponsorizzare una cosa e un'altra. Però quello che invece dobbiamo ottenere dalla legge è che imponga che, io non ti dico che isolamento utilizzare, ma non puoi utilizzare quello che inquina più di tot, tipo l'amianto. Sì, beh, no, l'amianto è già l'amianto. Sì, l'amianto, quello sono stati chiari. Esatto. Questo che dobbiamo ottenere. Quindi niente, a me oggi è stato chiesto di fare questa cosa. Se avete qualche domanda più specifica, se no la musica. Sì, io volevo dire una cosa, siccome abito anche nella zona delle signore sotto usando di Milano, che siamo diversi. Sì. Noi ci occupiamo di edilizia, a proposito di materiali. No? Sì. Stiamo ristrutturando un appartamento degli anni 70 con materiali, conoscerati, con la calce, con l'argilla, fare degli intonaci in argilla o mattoni crudi, insomma l'argilla perché ha degli ottimi vantaggi, degli ottimi benefici, oltre che molto consolante, no? E in questo senso appunto l'argilla si conosce poco, però ha delle ottime prestazioni sia per l'energia, regola l'umidità, trattenuta, traspirante, traspirante. Ah, ma io sono in questo appartamento e addirittura dico a fare una casa passiva, ma quasi. Siamo in un appartamento degli anni 70 e riuscite ad avere dei costi, diciamo, costi ragionevoli, assolutamente, la cosa perché si spende più magari dei materiali, ma non si devono fare delle lavorazioni inutili tipo il condizionatore d'aria piuttosto che altre cose. Esatto. No, no, ma infatti in questo senso questa è la strada che dobbiamo prendere. Sì. Poi, diciamo, io oggi ripeto, ho fatto un po' generale che riguarda un po' i materiali e la parte, diciamo, costruttiva e quello che riguarda invece più l'aspetto d'arredamento interno. Sono tutti argomenti che poi possono essere approfonditi. Questo è un proposito di pitture, lei parlava molto anche delle pitture, no? Ci sono aziende che utilizzano dei pigmenti naturali e con procedimenti tipo latte, uovo. Che proprio sono naturali al 100%, e questo porta a dei benefici sicuramente di benessere, come diceva lei prima, perché non si hanno fluttuazioni di umidità, eccetera, ma poi anche di un piacere visivo, perché il prodotto naturale al 100% l'occhio lo percepisce, ma la luce penetra in maniera diversa e rende l'ambiente più bello. Assolutamente. E ci sono poche aziende, devo dire la verità, che utilizzano prodotti naturali al 100%, però quelle poche sono veramente eccellenti, bellissime. Guarda, io infatti, diciamo, ho un po' concluso questo piccolo intervento con i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio per questo, perché cioè, non è una scelta, proprio un dato di fatto, per moda o per, cioè, proprio una scelta, diciamo, che incide sulla salute. Quindi così come giustamente siamo preoccupati, diciamo, di ciò che mangiamo, credo sia il problema è che le case ce le costruiscono gli altri. Il problema è che noi possiamo fare delle scelte, noi possiamo chiedere. Il problema è che quando si va ad acquistare una casa, purtroppo, come si fa a sapere esattamente? Cioè, si possono fare anche delle domande, ma poi bisogna vedere anche dall'altra parte chi c'è. questo sì, purtroppo. Però insomma, io ho visto un gradino alla volta, ci arriviamo, dai. Sì, sì. Va bene, io vi offro delle caramelle, se volete, no, c'è un mio bigliettino, giusto così, se avete voglia di fare.